mille violini suonati dal vento, tutti i colori dell'arcobaleno vanno a fermare una pioggia d'argento, ma piove, piove sul nostro amor. Ciao, ciao, bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba. L'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più. Cos'è che trema sul tuo visino? E pioggio pianto, dimmi cos'è. Vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amor. Piove, piove